credo di sognare, invece no, son proprio tua, tua, fra le braccia tue, solamente tua, così. Finalmente mia, così per sempre tua, mi pareva impossibile, ma fu poi tanto facile legarti a me. Sognare in due, per morir così, finalmente tua, così. Per sempre fra le braccia tue per sognare in